Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche e soprattutto delle audizioni che si stanno tenendo, già vi faceva riferimento il nostro GR24 sulla legge di stabilità. Ci sono stati i pareri dei tecnici della Camera e del Senato, pareri non scontati, anche perché hanno evidenziato più di qualche dubbio, chiamiamoli così, sul fatto che eliminare la TASI e l'IMU agricola e compensarla con l'aumento del fondo di solidarietà comunale può determinare un irrigidimento dei bilanci dei comuni, e poi i dubbi sul fatto che alle regioni vengano tagliati 17 miliardi di euro tra il 2017 e il 2019. Dubbi anche sul gettito del canone in bolletta. Poi le audizioni delle parti sociali, quindi Susanna Camusso per la CGIL e in questo momento sta ancora parlando il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Questo per quello che riguarda la legge di stabilità, che però a questo punto entra nel vivo, perché queste sono audizioni previste e classiche, ma insomma i dubbi che stanno emergendo non sono scontati. Ne parleremo anche nella seconda ora del programma. Per quello che riguarda invece altri elementi di questa legge di stabilità, ma che non fanno parte dei rilievi, c'è quanto oggi, e lo segnalo, riporta il Sole 24 Ore. Il tema in realtà non è inerente in maniera immediata alla legge di stabilità, nel senso che il Sole 24 Ore è andato a guardare come stanno andando le iscrizioni universitarie nel nostro sud. Tra il 2011 e il 2015 gli studenti complessivamente delle università italiane sono scesi di quasi il 7%. Questo può essere dovuto a un elemento demografico, ma anche al fatto che chi può va a studiare all'estero, e questo lo sappiamo. Però per quello che riguarda invece il rapporto e l'analisi del Sole 24 Ore, se si scorporano questi dati ci si accorge che qualcosa non torna. Perché lo dico? Perché al nord la situazione delle immatricolazioni, delle matricole è sostanzialmente stabile, meno 0,9%, al centro meno 4,6%, al sud meno 15% di iscrizioni nelle università del nostro mezzogiorno, con punte del meno 40% a Reggio Calabria, del 31% in meno all'Università di Napoli, 28% in meno di iscrizioni a Messina, 23% in meno le iscrizioni a Bari. Allora, ci può essere, anzi c'è sicuramente una valutazione sulla qualità della docenza, e devo dire che in questo gli studenti, futuri studenti universitari italiani, si dimostrano più maturi delle volte del corpo docenti, ancora preda di baronie e resistenze a tutti i costi a fare una riforma seria dell'università che metta in competizione l'università. Noi a suo tempo la indicammo nella eliminazione del valore legale del titolo di studio, così se vuoi fare un concorso non basta dire sono laureato in legge, vale la laurea dovunque tu l'abbia presa, metti in concorrenza le università. Ma soprattutto c'è anche un tema legato alle borse di studio, perché al nord quasi la totalità degli aventi diritto riceve il dovuto sostegno economico, in Sicilia appena il 32%, in Calabria il 57%, in Campania il 52%, in Puglia il 73%. E nella legge di stabilità, per questo c'entra la legge di stabilità, non è previsto praticamente nulla per le borse di studio nel nostro mezzogiorno. Lo dico perché è vero che c'è un travaso anche di studenti dal sud verso il nord, scegliendo quelle che reputano essere università più qualificanti nella preparazione, ma c'è anche un problema poi di accesso allo studio, di diritto allo studio. Le borse di studio non possono essere liquidate su due piedi, e vabbè, perché è ovvio che laddove c'è maggiore difficoltà economica, ed è indubbiamente nel nostro mezzogiorno, occorre anche che vi sia maggiore accesso al diritto di studio. Vi segnalo invece che per quello che riguarda il tema dei fondi strutturali europei, visto che mancano meno di due mesi, ce ne occuperemo nei prossimi giorni. Anche qui, e qui è veramente inaccettabile, stiamo rinunciando a miliardi di fondi europei per l'incapacità di predisporre piani decenti e quindi accettabili per l'Europa. Al di là delle truffe fatte con i fondi europei, è inaccettabile. Da quello che non risulta, sono 6 miliardi di fondi che rischiamo, o troviamo modo per utilizzare da qua al 31 dicembre, rischiamo di non utilizzare. 6 miliardi è tantissimo, perché è vero, poi chiedere al governo certe cose, ma quando tu non riesci a utilizzare 6 miliardi su 21, insomma, qualche esame di coscienza te lo devi fare, lo dico anche alle regioni. Di questo parleremo. La borsa, più 0,30% a Milano, più 0,60% a Parigi, più 0,90% a Francoforte, invariata a Londra, più 0,50% il Dow Jones in questo momento. Tra i titoli, anzi, partiamo dall'euro. Euro su dollaro quota 1,10,23, quindi stabile su livelli bassi. Tra i titoli, negativa Luxottica del 3,70%, poi il Banco Popolare del 3,20%, Saipem meno 2,80%, Anima meno 1,70%, UbiBanca e Pop Emilia Romagna meno 1,5%, Prismian meno 0,90%, come Ferragamo meno 0,60%. Fronte opposto, Snam Rete Gas più 3,50%, Mediaset più 2,50%, Unipol 6 più 2%, Jux più 1,70%, come Enel Green Power l'1,5%. Lo guadagna sia Enel che ST Micro Electronics, l'1,30% Mediobanca, Unipol e CNH Industrial, l'1% rialzo di Moncler e di Terna. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Recupereremo, per così dire, anche l'imprenditore di venerdì scorso, quando la classifica della settimana, complice anche le caprette della Marina Militare, ci ha portato lunghi, e vorrei recuperare invece il caso virtuoso che ogni venerdì affianchiamo alla poco invidiabile classifica sugli sprechi di questo paese. Allora, le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria, partiamo come sempre dall'economia internazionale. L'indice che va a misurare l'attività manifatturiera dell'industria cinese sta segnando un livello ancora in calo, quindi negativo, sotto i 50 che segnala, diciamo, lo spartiacque tra contrazione e espansione economica. È il livello più alto da giugno, è un 48,3%, ma sempre inferiore alla soglia che è, appunto, ripeto, lo spartiacque tra stagnazione e crescita economica. La Turchia, al di là dell'esito elettorale, torna nelle mani di Erdogan. Il suo partito, l'HPP, è tornato alla maggioranza assoluta, 49,4% dei voti e 316 seggi. Il partito filo-curdo HDP è entrato in Parlamento, ha superato la soglia di sbarramento del 10%. Nel sud-est è esplosa la rabbia della maggioranza curda, però Erdogan non ha i seggi sufficienti per cambiare la Costituzione in senso presidenzialista, e quindi, aggiungo io, ancor più autoritario, senza sottoporre a referendum le modifiche. L'OSCE, si è detta molto preoccupata per le elezioni in Turchia, che hanno avuto sostanzialmente un voto polarizzato, ma il bavaglio, cito testualmente, imposto ai media e le violenze nel sud-est del paese hanno ostacolato la campagna dei candidati e destano serie preoccupazioni. Visto che parlavamo dell'andamento del settore manifatturiero cinese, lo stesso indice in Germania oggi è calato a 52,1 punti contro i 52,3. È comunque superiore alla stima preliminare e conferma comunque, proprio perché 50 è lo spartiacque, un'espansione economica in Germania che resiste ed è all'undicesimo mese di fila. Come è andato in Italia? Buono, è salito a 54,1 punti contro i 52,7 di settembre. Siamo, ed è anche superiore alle attese, l'indice dell'attività manifatturiera. Siamo al livello più alto dal luglio scorso ed è per l'Italia il nono mese di fila che è sopra i 50 punti, quindi nella fase di espansione economica. Vedo molte domande sulla legge di stabilità, vi arriveremo fra un attimo, però ascoltiamo, anzi vi arriveremo alle 18, due degli interventi oggi in audizione, quello avvenuto poco fa del presidente Confindustria Squinzi, che ha detto bene la legge di stabilità sugli impieghi, non presenta invece delle criticità nel reperimento delle risorse e in particolar modo sulla spending review. Se il disegno di legge appare generalmente positivo per quanto riguarda gli impieghi, presenta, a nostro avviso, alcune criticità nel reperimento delle risorse. Conteniamo a ritenere una priorità del Paese l'adozione di una vera spending review, in grado non solo di ridurre la spesa pubblica, ma soprattutto di favorire una maggiore qualità ed efficienza della stessa. Il provvedimento prevede una serie di tagli, ma non contiene un piano complessivo di efficientamento e riqualificazione della spesa, poiché i risparmi sono principalmente riallocazioni. È molto chiaro, cioè non sono risparmi veri, sono spostamento di risorse. Devo dire che modestamente sulla spending review è forse la parte più deludente di questa legge di stabilità, a mio avviso, assieme anche ai 3.000 euro. Comunque, per quello che riguarda sempre il territorio di Squinzi, ha sottolineato che è essenziale che sia approvata la clausola migranti, a cui è legato l'anticipo della riduzione dell'IRES al 2016, e poi ha citato altri due grandi assenti in questa legge di stabilità: il Sud, e poi ne parliamo fra poco, e gli investimenti in ricerca e innovazione. Non è ancora utilizzabile il patent box perché mancano i provvedimenti che ne consentono l'accesso e anche le incertezze interpretative. Insomma, manca qualunque cosa che stimoli le imprese a fare investimenti in ricerca e innovazione. Tipicamente in questi casi si usano sgravi fiscali. La segretaria della CGIL, invece, Susanna Camusso, è ancora più netta nel giudizio: la legge di stabilità favorisce solo chi ha di più, penalizza chi ha necessità, taglia sostanzialmente i patronati e i CAF, aiuta gli affitti in nero. La manovra ha un chiaro orizzonte, sceglie qual è l'interlocuzione, lo sceglie dal punto di vista dello sviluppo, riproponendo di nuovo una delega al sistema delle imprese, non introducendo nessun elemento di selettività. Vale per gli interventi sulla tassazione, seppur prorogata nel triennio successivo rispetto alle imprese, vale per la scelta sulla TASI, che essendo generalizzata insieme all'IMU ha un effetto ovviamente di dare di più a chi ha maggiore ricchezza patrimoniale invece che guardare alla fascia bassa della popolazione. Per arrivare alla scelta dell'aumento del contante, vorrei qui sottolineare la nostra grandissima preoccupazione per i due sottocommi di quella norma, quella che si riferisce al pagamento in contante degli affitti e quella che si riferisce alla possibilità di pagare in contanti il trasporto merci. Sempre in merito alla legge di stabilità, anche la CISL, il segretario confederale Maurizio Petriccioli, ha detto occorre elevare le norme della legge di stabilità che prevedono tagli a patronati al CAF, mentre la UIL definisce gravissimo, e l'aspetto più negativo della manovra, il finanziamento risibile per i contratti del pubblico impiego pari a 8 euro al mese lordi. Sulle obiezioni, i rilievi, le analisi a questa legge di stabilità si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Salvatore Padula. Il disegno di legge di stabilità ha cominciato ad affrontare i primi esami al Senato, esami che lo porteranno all'approvazione attesa tra un paio di settimane per passare poi al vaglio della Camera. Da oggi si sono svolte e ancora si svolgeranno numerose audizioni dei soggetti e delle categorie alle quali la Commissione Bilancio di Palazzo Madama ha chiesto un parere sulla manovra. Ma oggi è arrivato anche un documento sempre molto atteso, si tratta del dossier predisposto dai tecnici del Servizio Bilancio della Camera e del Senato, che cerca di far luce sull'impatto delle misure proposte dal governo. Sotto esame dei tecnici parlamentari sono finite ancora una volta le norme che riguardano l'abolizione della TASI, dell'IMU agricola e di quella per gli imbullonati, norme che, come sappiamo, il governo ha sostenuto e sostiene con determinazione, ma che si confermano tra le più controverse del pacchetto manovra. A finire nel mirino del Servizio Bilancio è il fatto che il meccanismo di compensazione del mancato gettito, cioè quei 4 miliardi di tasse che i comuni non incasseranno più dai contribuenti ma riceveranno direttamente dallo Stato, rischia di irrigidire i bilanci dei comuni perché limita di fatto la possibilità dei comuni stessi sulle proprie entrate. Un rischio confermato dal fatto che, come sappiamo, il governo ha anche bloccato per il 2016 ogni possibilità di aumento delle tasse locali e delle addizionali, limitando così i margini di autonomia dei sindaci. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Adesso arriviamo anche agli studenti del sud e gli atenei del nostro sud. Due notizie in breve. La prima è un brevissimo riepilogo di quanto ha detto ieri, per chi se lo fosse perso, il presidente dell'INPS Boeri nel programma di Lucia Annunziata in mezz'ora. Due passaggi vorremmo sottolineare. Quello sugli esodati, dove Boeri ha detto: non penso che tutto sia stato del tutto risolto, per cui rischiamo di avere sugli esodati uno strascico. Guardi, sugli esodati la situazione è, io non penso faccio che sia stato sugli del tutto risolto, sempre, perché il modo con cui si è affrontato questo problema è tale per cui rischiamo di avere uno strascico. Adesso si sta chiudendo sulla settima salvaguardia, ma ci sono già forti pressioni per una ottava salvaguardia. La platea potenzialmente può arrivare alla fine, chiaramente, se non si pongono dei paletti molto stringenti. La legge li pone i paletti, ma diciamo che la pressione per allargarla sarà sempre forte fin quando a queste persone viene garantito un trattamento di vantaggio. Nel senso, quale vuol dire di vantaggio? Vuol dire che le persone vanno in pensione prima, certo, con una pensione piena. Sì. Questo crea un'iniquità perché, certo, perché agli altri percepiranno non la pensione, certo, per molti più anni di chi, sì, va in pensione, certo, dopo. E poi un altro passaggio: i vitalizi dei politici. Per quelli di oltre 80-85 mila euro l'anno abbiamo proposto una riduzione che arriva fino anche al 50% del vitalizio. La cosa a cui bisogna guardare è il livello della pensione in rapporto ai contributi versati. E chiaramente se uno ha versato molti contributi, è andato in pensione tardi, può aspirare ad avere una pensione anche molto alta. Ci sono però tantissime persone, questo è l'aspetto della sostenibilità sociale del sistema, che sono andate in pensione presto con delle pensioni molto alte. E queste persone hanno avuto dei regali per ragioni per lo più di natura elettorale nel tempo. I vitalizi, i tagli sarebbero abbastanza consistenti. Noi proponiamo di equiparare i vitalizi a delle pensioni. E quindi diciamo che per importi dei vitalizi superiori agli 80-85 mila euro all'anno si possono prevedere anche delle riduzioni che arrivano fino al 50% dei vitalizi, seguendo i principi delle nostre proposte. E poi il contributo degli immigrati alle casse dello Stato, già 3 miliardi 400 milioni di euro l'anno da persone che non riceveranno mai la pensione, la nostra pensione. Abbiamo calcolato che sin qui ci sono circa 3 miliardi che sono stati versati proprio ai conti pubblici italiani da persone che non percepiranno mai le pensioni, ma questa cifra è destinata ad aumentare fortemente. Nei prossimi anni arriveremo ad altri 12 miliardi e poi ogni anno ci sono circa 400 milioni che vengono versati, è come un regalo alle casse dello Stato di persone che non riceveranno mai le pensioni. Quindi grazie immigrati? Sicuramente. Sicuramente. questi sono i dati, piaccia o non piaccia chi negli immigrati, e stiamo parlando ovviamente di immigrati regolari, vede solo del male. Ultima notizia e poi andiamo al nostro, partiamo dal Mezzogiorno, ma per raccontare cosa è successo di positivo a Bagheria e quindi a Palermo, dove 36 imprenditori hanno trovato il coraggio dopo decenni di silenzio di ribellarsi al pizzo e hanno anche aiutato gli investigatori a tracciare la mappa del racket. Cinquantina più o meno le estorsioni scoperte dai carabinieri, che hanno eseguito 22 provvedimenti cautelari a carico di boss ed estortori del mandamento mafioso di Bagheria. Bravi, un grande coraggio ci vuole fare impresa al sud, almeno il doppio che farla al nord, oltre che per gli ostacoli che ti vengono dati anche per la presenza della criminalità organizzata. Sentiamo il commento al microfono della nostra Diana Fracchia del colonnello che è il comandante del provinciale dei carabinieri di Palermo, Giuseppe De Riggi. Questi imprenditori che hanno trovato il coraggio di raccontare all'arma dei carabinieri questa sottoposizione al pizzo che per taluni è rinato addirittura da decenni. Il caso di un imprenditore edile che ha raccontato della propria messa a posto, come si dice appunto nel gergo, iniziata addirittura negli anni 90 e che lo ha portato sostanzialmente al tracollo finanziario. Lo scenario delle imposizioni è molto variegato, privilegiato il settore dell'edilizia, ma ci sono supermercati, negozi di mobili, di abbigliamento, attività all'ingrosso di frutta. Oh, noi restiamo a sud e vediamo di capire, perché i dati vanno presi con attenzione, però quanto scrive il Sole 24 Ore oggi, o scopre il Sole 24 Ore oggi, mi sembra abbastanza incontrovertibile. Allora, c'è stato un calo negli ultimi 4 anni degli studenti che si sono iscritti all'università in Italia. Uno potrebbe dire, vabbè, è il combinato disposto del calo demografico assieme al fatto che chi può, chi se lo può permettere, vada a studiare all'estero. Cosa che invece quando facevo l'università io avveniva solo dopo la laurea di solito, cioè era più che buona la preparazione, ma soprattutto il mercato del lavoro era tale che se ti laureavi in Italia, studiavi in Italia, non eri proprio un somaro, un lavoro lo trovavi. È cambiato tutto, chi può va all'estero, ma la cosa interessante è che questa media del 6,8% di calo nelle immatricolazioni è una media di Trilussa. Perché? Perché al nord la situazione è stabile, cioè nelle università, diciamo, del nord del paese non c'è stato nessun calo, meno 0,9%. Al centro meno 4,6%, ma soprattutto quando vedi le iscrizioni nelle università del sud, beh, lì è un tracollo, meno 14,5%, meno 40% ripeto alla Reggio Calabria, meno 31% all'Università Partenope di Napoli, meno 28% a Messina, meno 23% al Politecnico di Bari. Ora uno potrebbe dire, beh, è il fatto che l'insegnamento è mediamente peggiore, gli studenti sono più intelligenti dei professori, quelli arroccati nelle baronie universitari, hanno capito che il mondo è cambiato e vanno dove c'è una formazione migliore. Sicuramente ci può essere anche questo, mi fate notare che a Bagheria c'è un sindaco 5 stelle, vabbè, giusto ricordarlo, c'è un sindaco 5 stelle. Però tornando al tema dell'università, in realtà conta anche un po' il welfare, nel senso che, se ho ben capito, al nord la quasi totalità degli aventi diritto alle borse di studio per motivi economici, di sostegno economico, le ottiene. In Sicilia solo 1 su 3, in Calabria 1 su 2, in Campania 1 su 2, in Puglia 2 su 3. Insomma, questo è un peso, ce lo può avere. Giro la domanda a chi ha compilato e analizzato questi dati. Mi riferisco a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. L'analisi completa dopo il metodo e la pubblicità, però la domanda che viene spontanea, ma non è che essendo il sud, ahimè, più povero, non si riesca a dare tutte le borse di studio perché le domande sono molto maggiori? No, non si riescono a dare le borse di studio perché i soldi delle regioni, le regioni si occupano di borse di studio, sono meno, e soprattutto i tagli operati dalle regioni su questa voce sono superiori. Ecco, e questo, diciamo, la dice lunga su dove si va a tagliare, perché quando poi raccontiamo delle spese della regione Sicilia, delle spese della regione Calabria, delle spese della regione Puglia, le raccontiamo, poi bisogna sapere, devono sapere i cittadini di quelle regioni che si tengono i soldi per alcune cose, e ne abbiamo raccontate a decine, e poi magari si levano i soldi delle borse di studio, tanto probabilmente il laureato, o magari il laureato, la matricola vota male, non è un voto strutturato, non lo so quale sia il motivo, è semplicemente un'ignoranza un po' borbonica, dopo il meteo. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Arriviamo alla legge di stabilità, però saltare i temi, attenzione, non basta dire che al sud gli atenei sono più vuoti o che le borse di studio non raggiungono tutti perché c'è maggiore bisogno al sud. Bisogna anche dire le cose come stanno, cioè le regioni del nostro mezzogiorno in buona parte sono regioni che preferiscono fare altre scelte, se no si va sempre a piagnisteo, non abbiamo le risorse. No, non è così. Già ne trovati, cosa avete scoperto voi? E non sarà magari solo questo il motivo per cui le sono crollate, quando tu hai meno 40% di iscrizioni, meno 30% di iscrizioni in 5 anni, si parla di crollo delle iscrizioni all'università. Ci sarà anche la qualità, in alcuni casi la docenza, dei servizi, di quello che c'è attorno. Ma restiamo sul cosiddetto welfare accademico, vai Gianni. Sì, il punto è quello, diciamo subito la eccezione che è la Basilicata copre le borse di studio a tutti gli aventi diritto, è l'unica regione meridionale. Qui si crea sostanzialmente un circolo vizioso, perché naturalmente molti studenti vanno nelle università del nord oppure a Roma eccetera nella ricerca di maggiori possibilità di lavoro quando poi uno esce dall'università. Il problema è che chi va al nord o a Roma, chi ha dietro una famiglia alle spalle che gli finanzia 4-5 anni a Milano, Roma, Bologna eccetera, chi invece questa famiglia alle spalle non ce l'ha, non ha nessuna altra opportunità. Naturalmente appunto welfare accademico manca proprio dove ce n'è più bisogno, cioè dove il reddito medio e la ricchezza media delle famiglie è inferiore, e questo esclude di fatto da una serie di possibilità tutta una serie di giovani diplomati meridionali che avrebbero tutte le carte da giocarsi, tranne appunto la carta moneta, diciamo così, e il sistema non va incontro a loro. Diciamo anche un aggravante, questo dipende appunto dai bilanci disastrati di molte regioni, ma la voce diritto allo studio sul totale del bilancio regionale non è vitale, è proprio un taglio fatto, come dire, si tagliano tante voci che sono considerate elettoralmente poco significative. Così mi permetti anche di rispondere a chi si è offeso perché ho detto ignoranza borbonica. 10 minuti fa avevo tessuto le lodi, ma non perché devo fare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, di quanto difficile sia fare gli imprenditori al sud, molto più difficile che farlo al nord, per tutto un insieme di motivi, tra cui la criminalità organizzata lì ancora più presente, non solo lì presente. Ignoranza borbonica è nelle amministrazioni, così chiarisco, del nostro mezzogiorno, che privilegiano, lo stiamo raccontando da anni, non ho nessun problema a dirlo, non me ne frega nulla se qualcuno scrive è diventato leghista, ma non diciamo cavolate, fermo restando che uno vota quel cavolo che vuole, ma il problema è che noi stiamo raccontando da anni, e ci abbiamo fatto anche una rubrica, come nella scelta dei soldi da spendere, mi riprendo tutto il materiale che abbiamo, se c'è da privilegiare la sagra, la manifestazione culturale, abbiamo raccontato quanto spende la Regione Sicilia per la banda del Corpo Forestale, adesso le tiro fuori, all'anno che deve andare, questo va sempre bene, perché si elargiscono i soldi così per motivi di consenso, perché la sagra o il patrono o la festa del patrono X e Y vanno. Se poi c'è da dire dove puntiamo per questi nostri giovani che hanno già avuto la sfortuna di crescere in un'area economicamente depressa, non da loro depressa, ma depressa da anni di cattiva amministrazione e di clientelismo e di rapporti con la criminalità organizzata, tagliamo giustamente quelle che sono le borse di studio, con l'idea che tanto quelli o votano poco o non votano, o comunque non è lì che crei grosso del consenso, vuoi mettere a distribuire per... questo non ho nessun problema a dire che è così, va bene? Perché, e a maggior ragione, là dove c'è un'area depressa, avresti più bisogno di insistere con le borse di studio, dire guardate, quest'anno non facciamo, non spendiamo un euro per la commemorazione di Santa Rosalia o chi essa sia, ma il massimo rispetto alla religione, tutti i soldi li destiniamo alle borse di studio. Si può immaginare? No, è una follia, perché poi probabilmente i vari sindaci si arrabbiano, il consenso tra non ce l'è più. Comunque, detto questo, nella classifica che Gianni Trovati ha oggi presentato su Sole 24 Ore, faccio notare che ai peggiori posti ci sono Reggio Calabria, Chieti, Pescara, L'Aquila, Napoli, Partenope, ma ci sono anche delle università del sud che questi dati non li hanno avuti. Salerno ha avuto addirittura un leggero aumento degli iscritti dal 2011 al 2015. Faccio notare che Catania ha avuto un calo ben più basso della media, meno 7%. Faccio notare che c'è anche un'università come Trieste che ha avuto un calo molto forte del 16%, come lo UAV a Venezia, e come anche Perugia per gli stranieri, lì non so se siano altre dinamiche, meno 32%. Quindi non è tutto bianco e tutto nero. Indubbiamente spiccano le università del sud, ma Macerata, che voi mi dite che cosa ha fatto, Macerata ha avuto un aumento delle matricolazioni 14%. Ora, cosa emerge dal taglio invece delle borse di studio, Gianni? Emerge appunto il circolo vizioso che dicevamo, e che è aggravato dal fatto che perché si tagliano così a cuor leggero i soldi per il diritto allo studio? Perché il diritto allo studio, molti non sanno che è finanziamento regionale, ma come dire, è ritenuta una cosa statale, e quindi non c'è questo legame di responsabilità diretto nell'opinione pubblica tra le condizioni disastrate in alcuni territori del diritto allo studio e appunto la scelta della regione che ha privilegiato nei tagli questa voce piuttosto che altre. Hai fatto bene a citare Salerno. Salerno è sempre in controtendenza a livello accademico, anche per quel che riguarda le performance sulla didattica, sulla ricerca. Salerno è un po' un'eccezione. Che questi, i ragazzi non è che sono stupidi, se sanno che a Salerno, e tu magari abiti in Campania, in Puglia, hai anche dei vantaggi, l'università è buona, infatti Salerno fa più 14%. È vero che nei test invalsi, adesso vado a memoria anch'io, ci sono sempre dei dati abbastanza in controtendenza rispetto ad altre università al sud. Abbiamo raccontato, non ce l'ho con Bari, però sarà una coincidenza, ma è qualche mese che raccontiamo anche di problemucci all'università di Bari, sarà una coincidenza. Poi uno va a vedere le percentuali di studenti che hanno ricevuto la borsa di studio in rapporto al totale degli idonei. Nel 2013 ci sono intere regioni al 100%, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Val d'Aosta, Veneto, provincia di Bolzano e Trento, ovviamente, tra virgolette, Lombardia all'87%, poi ci sono regioni che non se la passano malissimo, nel senso che Lazio per esempio ha il 77%, e poi hai Calabria e Campania 1 su 2, Sardegna 1 su 2, Sicilia 1 su 3, ed è una regione a statuto autonomo e ha 24.000 assunti regionali forestali, di cui abbiamo discusso anche la settimana scorsa. Se tutto va bene, Gianni. Il paradosso è che appunto il sistema ti chiede una serie di informazioni per capire se hai i parametri per ottenere la borsa, certo, di studio. Tu gli dai le informazioni, lo stesso sistema ti dice perfetto, i tuoi parametri sono in regola, però grazie, arrivederci, perché noi i soldi non ce li abbiamo. Diciamo così, gli idonei non beneficiari, è il classico modo burocratico all'italiana per nascondere sotto nomi un po' grigi un paradosso assoluto, perché significa che tu hai le carte in regola per ottenere quello, si chiama diritto allo studio, non si chiama favore o altro, è un diritto peraltro tutelato dalla Costituzione, dovrebbe essere una cosa automatica. Io ho i parametri, rispetto a una serie di parametri, in primo luogo reddituali, l'ISEE, e quindi ottengo il diritto. Invece il diritto in Italia molto spesso è un favore. No, va bene, ma basta intendersi, decidiamo che lo studio non è più un diritto e che lo Stato non ha più l'obiettivo di livellare le differenze che la storia biografica dà a ognuno di noi, tra chi nasce in una certa famiglia piuttosto che in un'altra, tra in una regione piuttosto che in un'altra, non lo chiama più diritto allo studio, ma facoltà di ricevere un bonus allo studio in base a come la regione si comporta, in base alle priorità della regione. Però non capisco obiettivamente la polemica di alcuni ascoltatori su quello che abbiamo detto della regione del nostro Mezzogiorno. Comunque, grazie. Grazie a voi. A Gianni Trovati, traffico, poi borsa e poi l'imprenditore e poi la legge di stabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento Focus Economia. Allora, la borsa oggi non è tanto la vicenda Telecom a tenere banco, anche se diciamo i due francesi che assieme dovrebbero lanciare un'OPA e che di fatto comunque sono i nuovi azionisti di riferimento del gruppo Telecom, qualche problema di insonnia al governo lo stanno creando. Lo dico perché il titolo oggi è fermissimo, 0,08 il rialzo di Telecom Italia. Andrea Fontana, comunque Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Andrea, al di là di Telecom, oggi c'è stato un calo molto forte su Luxottica, meno 3,84%, e lì abbiamo visto anche dei conti, però è un giudizio di una banca d'affari. Poi nel frattempo abbiamo visto andare bene Snam più 3,30 e Mediaset più 2,20%. Sul fronte banche cito semplicemente il fatto che Monte dei Paschi guadagnano 0,90, anche se da quello che abbiamo capito si avvia a presentare conti in rosso per via dell'accordo con Nomura sui famosi derivati. Intesa San Paolo più 0,40, il resto si chiama Banco Popolare meno 3,60, Popolare Emilia Romagna meno 1,40, Pop Milano meno 0,35%. Allora partiamo dalle utilities. Snam, aggiungerei anche Enel Green Power più 1,70, Terna più 1,12 e Enel più 1%. A2A l'ho saltata e fa più 0,60%. Una grande giornata di vivacità per le utility, perché venerdì è arrivata la pubblicazione da parte dell'autorità del gas e dell'energia dei documenti consultivi per definire le remunerazioni, cioè i ritorni per le società che investono nell'attività di distribuzione e di trasmissione, distribuzione del gas e di trasmissione dell'energia. È da tempo che questa nuovo provvedimento dell'autorità, che sarà efficace a partire dal 2016, agita i titoli in borsa. Ci si aspettava una remunerazione ancora più bassa per questi tipi di attività, invece gli ultimi documenti sembrano dare delle indicazioni di remunerazione abbastanza soddisfacente, non come quelle del passato, e quindi il mercato ha iniziato un po' a fare i suoi calcoli, a rivedere per Snam e Terna prevedere per Snam e Terna quegli utili e di conseguenza quei dividendi che hanno già distribuito nei mesi scorsi. Quindi chi si aspettava un taglio del dividendo forse dovrà rivedere un po' i suoi conti. Ecco perché sia Snam che Terna oggi hanno guadagnato molto bene. Terna ha guadagnato l'1,1, Snam lo ricordavi tu più 3,3, ma poi si sono mosse bene di concerto anche le altre utility che beneficeranno di questa nuova normativa, di questo nuovo provvedimento, quindi anche Enel, anche A2A. E il fronte opposto invece restiamo su chi ha guadagnato. Mediaset oggi anche, e sono buone le notizie dalla Spagna. La scorsa settimana Mediaset Spagna, la controllata, ha dato dei risultati per certi versi sorprendenti, sia in termini di ricavi che in termini di utili. Ha annunciato anche un aumento probabile del dividendo il prossimo anno, e di questo ha beneficiato Mediaset, che la prossima settimana rilascerà i suoi conti trimestrali, per cui ne beneficerà quasi sicuramente, insomma, nei suoi conti. Ma c'è da dire che tutta l'effervescenza e le manovre che stanno riguardando Telecom in questi giorni non possono non avere riflessi, almeno dal punto di vista speculativi, su Mediaset e su chi pensa che un riassetto di Telecom francese, cioè che passi per un'azione di Vivendi, non possa includere Mediaset, visto che da tempo Mediaset e Vivendi sono in discussioni per collaborazioni di tipo commerciale o forse di tipo più forte, quindi di tipo anche azionario. Visto che citavi Vivendi, è chiaro che vorrei un commento anche su Telecom, che appunto è poco mossa ma con molti scambi. avuto una vivacità soprattutto nella prima parte della seduta. Ricordiamo che Telecom già venerdì era arrivata a toccare i massimi degli ultimi 7 anni e ancora oggi si è spinta sopra 1,3 euro, appunto cifra che valore che non si vedeva dall'estate del 2008. Poi anche perché c'era molta effervescenza su gli incontri che nei prossimi giorni Xavier Niel potrà avere. Certo. In Italia, a cominciare da quello con la Consob, qualcuno diceva con la Cassa Depositi e Prestiti, che ha poi smentito. Nel pomeriggio sono scattati anche dei naturali realizzi che hanno riportato il titolo a 1,27, ma comunque si rimane sulla soglia della speculazione, quindi il titolo non ha pagato vendite consistenti. Allora, migliori e peggiori li facciamo dopo il GR24. Grazie intanto ad Andrea Fontana e poi appunto l'imprenditore e la legge di stabilità. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog. Da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul... State ascoltando un programma offerto da... Investi in fondi? Solo con Online SIM scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo dei migliori e peggiori della borsa, al di là dei titoli già commentati, migliori in assoluto oggi sul listino Mondo TV più 19% e poi Bio2 più 16%, poca roba. Gala il peggiore meno 8%, Lidata meno 5,20%. Oh, arriviamo alla legge di stabilità, però come alcuni di voi ricorderanno dobbiamo riprendere l'imprenditore che sempre invitiamo venerdì quando facciamo la classifica degli sprechi per mettere a confronto invece chi in questi anni di crisi si è rimboccato le maniche e ha lanciato un'attività. Abbiamo fatto tempo venerdì solo a salutarlo e ringrazio quindi di nuovo Matteo Lai, che è amministratore delegato di Empatica. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto, sempre per quello che riguarda il profilo, lei ci raccontava che avete fondato Empatica, lei ha 30 anni, mi ricordo 33 forse, ricordo male, 33, sì. Assieme a un suo socio Simone Tognetti, che ne ha 33 anche lui, e Maurizio Garbellino, 30 anni. Che sì. Cosa avete fondato, quando e come? La società si chiama Empatica e si occupa dell'analisi del comportamento umano, quindi noi sviluppiamo braccialetti che vengono usati nella ricerca medicale per capire cosa succede ai pazienti nella vita quotidiana, fuori dall'ospedale, soprattutto sono specializzati nelle condizioni neurologiche, soprattutto epilessia e autismo, anche lo stress, e quindi abbiamo sviluppato un braccialetto per la ricerca e uno adesso nuovo che uscirà a fine anno, che invece si occupa di fare l'analisi degli attacchi epilettici per chi soffre di epilessia. Quindi questo braccialetto permette di acquisire dei segnali, se ho ben capito, no? Sì, che... sì, lui vede cosa succede al corpo in tempo reale, manda i segnali al cellulare e se c'è qualcosa che non va... Al cellulare? Sì. E quindi è utile anche, immagino, per i genitori che hanno bambini affetti, esatto, da epilessia e autismo? Sì, esatto. 4. L'idea è proprio quella, cioè che possano condividere questi dati con i genitori o con il partner o con i figli, che così possono controllare cosa succede. Ecco, questo braccialetto è un'apparecchiatura medica, cioè la possono utilizzare e dare solo i medici, o si compra banalmente anche per lo può comprare il cittadino normale? Sì, l'idea è che possa essere comprato da tutti. Noi, il nostro obiettivo era poter mettere la tecnologia a disposizione delle famiglie il prima possibile, però allo stesso tempo diciamo anche un dispositivo medico. Ecco, voi siete nati nel 2011, però poi avete fatto anche una fusione nel 2014? Sì, diciamo che l'esperto mondiale nella ricerca dell'analisi dei dati legata all'autismo e all'epilessia è una professoressa dell'MIT. Una professoressa, mi scusi? Dell'MIT, che è di Boston, sì, che è la prima università tecnologica al mondo, e lei è la fondatrice di una disciplina che si chiama Affective Computing, che si occupa del capire il comportamento umano nella vita quotidiana, cioè lei è quella che ha dato il nome alla disciplina. E noi al tempo, nel 2013, lavoravamo sullo stress e vendevamo i nostri braccialetti, lei era uno dei nostri clienti e si stava occupando di questa nuova ricerca avanzatissima sull'epilessia, e diciamo che ci siamo molto appassionati a questo tema e abbiamo deciso di unire le forze per prendere la tecnologia che aveva sviluppato lei in ospedale e portarla ai consumatori. Ho capito. E avete fatto una fusione con questa azienda? Sì, lei è entrata nella società. Quante persone lavorano per voi? 21. 21? Sì. E il fatturato come è cresciuto in questi anni? Il fatturato ha fatto dall'anno scorso a quest'anno 4 per, però non, cioè, non posso dire. 400% in più? 400%, sì. Ma non ce lo vuole dire? No, non posso dirlo. Noi vendiamo comunque i nostri braccialetti in 40 paesi circa, lo usano tutti gli ospedali, università, centri di ricerca, compagnie farmaceutiche in tutto il mondo. Senta, chi vi ha finanziato nel 2011? Cioè, voi, questa cosa è nata, eravate studenti, se ho ben capito, al Politecnico, no? Tutti e tre ingegneri al Politecnico? Eravamo già tutti laureati, in realtà, sì. Chi dottorato, chi laurea. Abbiamo ricevuto dei soldi all'inizio da angel privati, che hanno messo quello che si chiama un super seed, di poco più di 250.000 euro. E poi abbiamo continuato, abbiamo sviluppato il nostro prodotto per 2 anni, abbiamo cominciato a venderlo, all'inizio in Italia, dove nessuno ci considerava, che ci pagava, e poi invece abbiamo cominciato a venderlo all'estero, in Europa, negli Stati Uniti, e poi abbiamo, diciamo che il volume d'affari è aumentato, e poi abbiamo, si è unita a noi anche la professoressa Picard, e da lì abbiamo preso un finanziamento da investitori privati per 2 milioni. 2 milioni? Sì. Ma cosa si tratta? Crowdfunding, cioè la raccolta che si fa sulla rete di chi vuole partecipare, o avete avuto anche quelli che sempre con un inglesismo si chiamano business angels, cioè gli angeli del business? Sono praticamente finanziatori che amano mettere i soldi, di solito hanno già dei patrimoni ingenti, appunto in startup, in nuove iniziative. Abbiamo preso da Business Angel in Italia e negli Stati Uniti. Abbiamo anche fatto una campagna di crowdfunding, non di capitale, cioè proprio sono preordinazioni sul prodotto. Ah, preordinazioni, non sì. di capitale, cioè di prevendita avete fatto? Prevendita, sì, abbiamo raggiunto $800.000. E chi vi ha aiutato in questo? Noi, l'abbiamo fatta da soli. Senta, visto che poi adesso non voglio polemizzare sempre, ma ogni volta questa cosa del credito bancario, noi facciamo notare che le banche dicono: ma non ci arrivano mai domande buone. Però tutte le start-up che abbiamo avuto fino adesso, vado a memoria, forse una, due eccezioni, non hanno mai, e ormai ne abbiamo collezionata qualche decina, mai ricevuto un finanziamento bancario. Devo dire che delle volte abbiamo avuto casi in cui i fondi, va detto, della regione, cito a memoria la regione Puglia in un caso e altre regioni, hanno messo a disposizione i fondi regionali per lo sviluppo, e in altri casi le strutture universitarie. Quindi ci sono stati anche dei casi virtuosi da parte degli enti pubblici, non solo li critichiamo. Sulle banche ne avessimo incontrato uno che ci ha detto: sì, sono andato in banca, hanno creduto nel mio progetto e mi hanno finanziato. Lei, scommetto che mi smentirà. Se ne trova uno poi me lo manda, che non è così. No, dico, lei riesce a smentirmi? Le banche vanno aiutato? No, cioè se... Perché ride? È una domanda seria. Ma no, mi dica, le banche sono una quasi pagliacciata in Italia, non, le banche danno i soldi solo a chi non ne ha bisogno. Infatti noi ci siamo quasi, adesso quasi non ne abbiamo bisogno e forse ce li danno, perché questa è un po' l'impressione che ho avuto io. Io pensavo le banche funzionassero in modo diverso, cioè le famiglie hanno dei risparmi, li mettono in banca, le banche le danno alle società, le società crescono, assumono dipendenti che fanno una famiglia, che depositano altri soldi, che li riprestano, e quindi si crea un circolo virtuoso, ma non è così in Italia perlomeno. Cioè noi abbiamo avuto qualche mese fa, diciamo, fatto, adesso sa che ci sono delle agevolazioni del fondo del medio credito centrale, sì. Cioè dei prestiti contro garantiti dallo Stato per l'80%, e quindi la banca garantisce solo per il 20%, quindi dice vabbè, almeno così si riuscirà a fare qualcosa. Noi siamo andati avanti per tipo 5 mesi, abbiamo chiesto, adesso non le sto a dire la cifra, e sono tornati indietro dopo 5 mesi di discussioni, e ci hanno offerto come prestito totale quello che fatturiamo in 6 settimane praticamente. In 6 settimane? Detto, ma mi state prendendo, adesso siamo in radio, non vi dico, ma gli ho detto chiaramente come... Ma lei ha provato più banche? Sì, adesso poi questa era, diciamo, molto promettente, ma adesso proveremo altre banche, speriamo che vada meglio. Quindi noi non siamo neanche, noi siamo una società che fattura bene, non siamo neanche in una posizione, sì, no, che già... non ha neanche un prodotto, è ancora da fare, se no quello va bene, mettere a ridere, non ci proveremo. Ma lei è andata anche sulle grandi banche o sulle banche più locali, chiedo? No, vabbè, sulle banche, insomma, gli istituti più grandi. E nessuno si è dimostrato, nonostante aveste già un fatturato, non mi frega. No, beh, adesso diciamo una appunto ha fatto questa offerta scandalosa e adesso insomma stiamo provando con altre. Speriamo che vada bene, se no veramente insomma, sarebbe... No, ma mi chiedo, me lo dico senza polemica, cosa debba fare un imprenditore giovane, laureato in ingegneria, con due soci, che mette su una cosa che la capisco anch'io, cioè, che chi ha dei grossi sviluppi... Non so valutare un piano industriale, ci mancherebbe, ma che inizia già a fatturare, che poi fa una fusione con l'azienda di Boston, un spin-off dell'MIT di Boston, cioè non è una cosa che stai vendendo chiacchiere distintivo, eppure non si riesce a trovare un finanziamento. Poi il dato aumenterà sempre per i medio grandi, mettiamola così. Io non so più come prenderlo sto tema del finanziamento delle banche alle imprese che hanno un progetto, perché dicono non chiedeteci il circolante, giusto, è giusto che l'imprenditore non vada lì per chiedere il circolante per pagare i fornitori, in questo caso parli di un progetto di sviluppo, ma per l'ennesima volta avremo sfortuna noi, li becchiamo tutti noi, gli imprenditori delle start-up che non hanno ricevuto un aiuto dalle banche. Bocca al lupo a lei, ai suoi 21 dipendenti e ai soci, grazie anche a Matteo Lai, amministratore delegato di Empatica. Allora, andiamo col traffico e poi la legge finanziaria, oggi le audizioni, ma soprattutto il... ma cosa c'entra il fatturato con i prestiti? Ma mi chiede un bancario, non so, veda lei. Allora, se non c'è il fatturato, dite che non c'è il fatturato. Se c'è il fatturato, cosa c'entra con i prestiti? Mi spiegate una volta per tutte che cosa deve dire un imprenditore che magari sta lanciando un'impresa, cosa deve dare alla banca, perché ogni volta che troviamo qualcosa non va bene mai quella, non lo so. Comunque, dicevo, dopo questo, legge di stabilità, le obiezioni e le preoccupazioni dei tecnici, oltre che le audizioni di Confindustria e sindacati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Tempo sono usciti i dati sulle matricolazioni auto in Italia, devo dire quanto mai importanti, anche perché sono le prime in cui si va a verificare l'effetto Dieselgate. Secondo il centro studi Promotor ha avuto un modesto impatto sul gruppo Volkswagen. Oddio, guardando complessivamente il mercato ha fatto più 10 più 8,5% a ottobre, mentre Volkswagen ha fatto meno 6,80, Seat meno 11,20 e invece Audi è cresciuta del 18%. Ora, non voglio dare lezioni a Gianprimo Quagliano, ma modesto impatto non si può sentire, diciamo impatto diametralmente opposto tra Seat che perde parecchio, Volkswagen che in un mercato che fa più 8 perde meno 6,80 e Audi che va invece in controtendenza e anzi supera la media del mercato. Comunque, la Fiat più 10,8%, quindi meglio della media del mercato, che ho, ripeto, è 8,5. Da inizio anno le immatricolazioni in auto in Italia hanno fatto più 15% e Fiat ha fatto più 17%. Dino Pesole del Sole 24 Ore, aiutaci tu, buonasera Dino. Buonasera, eccomi. Abbiamo già ascoltato in apertura le dichiarazioni sia del presidente Confindustria Squinzi che del segretario della CGIL Camusso. Sulle Squinzi ha detto, insomma, scusatemi, bene la finanziaria, ma non per quello che riguarda la spending review, bene sugli impieghi, non sulla spending, sul riperimento delle risorse. Grandi assenti sono ricerca e innovazione e il nostro Mezzogiorno. Però mi titillano di più i tecnici della Camera e del Senato, che hanno detto senza Tasi vi saranno forti limiti alle manovre dei comuni, e hanno aggiunto che il fatto di attendersi 17 miliardi di tagli dalle regioni tra il 2017 e il 2019, occorre valutare se siano praticabili, e è molto difficile non includere in questi tagli la sanità, ho capito bene? Sì, sono due degli aspetti che sono più controversi, che già avevamo evidenziato anche sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi, perché la manovra espansiva va benissimo, piace a tutti, va benissimo una manovra che prova a ridurre le tasse. Il problema è quando si mette mano, come sempre, ai tagli alla spesa, che anche in questo caso sono sostanzialmente carenti e in gran parte tagli, come dire, quasi lineari. Allora, il problema di fondo riguarda il fatto che dei 5,9 miliardi di tagli alla spesa attesi dalla cosiddetta spending review, poi ci sono altri 2 miliardi di cosiddetti efficientamenti che sono limature di bilancio, eccetera. Allora, di questi 5,9, soltanto 1,5 miliardi a carico delle amministrazioni centrali, vale a dire dei comuni, e il resto, vale a dire dei ministeri, e il resto a carico in gran parte delle regioni. Da qui la preoccupazione dei tecnici del Senato e della Camera, che hanno fatto due conti, e la stessa preoccupazione peraltro è stata espressa dal presidente Chiamparino, presidente della Conferenza delle Regioni, che ha ricordato come di questi 5,9 miliardi oltre 4 saranno a carico nel 2016 soltanto del sistema regioni, dunque 2 miliardi dalla sanità e il resto da altri risparmi. Dunque qui il problema si ripone e ripropone così come era già l'anno scorso per quanto riguarda le regioni, e cioè a fronte di questi tagli come le regioni poi potranno far fronte. Quanto ai comuni, il problema riguarda sostanzialmente il meccanismo di finanziamento che è stato individuato dal governo per far fronte alle minori entrate che deriveranno dalla soppressione della Tasi sulla prima casa. Si tratta di oltre 3 miliardi e mezzo. Mm-hmm. Allora, in questo caso il governo ha previsto di farvi fronte incrementando il cosiddetto fondo di solidarietà. E allora qui il punto è che i tecnici del Senato e della Camera dicono che se si sostituisce un'entrata certa, vale a dire il gettito della Tasi sulla prima casa, con un incremento di un fondo che poi sostanzialmente è un fondo che viene attivato dallo Stato, ecco che si limita appunto la capacità, in qualche modo impositiva, dei comuni. È una preoccupazione, è giusto che i tecnici la mettano in luce, però di fatto c'è il rischio che a fronte di minori entrate automatiche vengono meno, poi ci siano dei meccanismi più complessi per reperire queste entrate e dunque come dire, il rischio dietro l'angolo che poi si possano verificare incrementi anche della pressione fiscale a livello comunale o locale c'è sempre. Ecco, c'è un passaggio sulla legge di stabilità, sempre da parte dei tecnici di Camera e Senato, che riguarda la sanità, Italia e le regioni. Loro dicono, appunto, come tu già ricordavi, attenzione che l'ulteriore taglio ai fondi della sanità, già ridotti quest'anno rispetto a quanto previsto in origine, potrebbe dare tensione potrebbe creare tensioni lungo tale linea di finanziamento. Però aggiungono una cosa importante, ecco perché la spending review è un'occasione persa. Dicono, certo, che se tu centralizzassi gli acquisti della sanità, noi sappiamo che il 70% diciamo degli sforamenti arriva lì, e sappiamo che gli scandali, o perlomeno quelli più visibili sui diversi costi della spesa standard, riguardano anche lì nel 70% dei casi la sanità. Dice, se centralizzassi gli acquisti dovresti facilitare il conseguimento dei risparmi, e cioè un conto è dire spendiamo meno di sanità perché abbiamo risparmiato 2 miliardi l'anno, un conto è tagliare di 2 miliardi quanto dovevi destinare alla sanità senza aver messo in piedi la spending review. Ecco perché serviva non solo per un risparmio dello Stato ma anche per un'efficienza della pubblica amministrazione, non si tratta solo di tagliare e basta. Proprio questo è il punto, esattamente, cioè, il problema della spesa pubblica non è arrivare a tagli che poi sono uguali per tutti, ma provare a razionalizzare e quindi a rendere più efficiente la spesa. La strada della centralizzazione degli acquisti, che poi in qualche modo rinvia anche all'altro tema irrisolto, dei cosiddetti costi e fabbisogni standard, che nella sanità sono stati previsti da leggi precedenti e mai attuate, mai attuate, quindi qui ancora una volta va benissimo lo schema, ripeto, di una manovra espansiva, ma devo dire che sul fronte della spesa le misure sono ancora non all'altezza delle aspettative, fermo restando che poi dal 2017 bisognerà pure incrementarla questa dote di 5-9 miliardi, perché ci sono altre clausole di salvaguardia da disinnescare. Quindi certo, per ora, come dire, ci accontentiamo di questa mini spending, chiamiamola così. Oppure ci poteva essere una franchigia, sì, mi scrivono gli ascoltatori, per carità. Allora, due sms li cito. Uno riguarda le banche e le start-up. Faccio un appello alle banche che hanno finanziato start-up di... Va bene, è vero, avete ragione. Le banche che hanno finanziato start-up, no, una su mille, ma che hanno... ci chiamino e noi inviteremo il direttore responsabile di area, quello che è, per raccontarci come si può finanziare anche una startup quando è seria, oppure decidiamo che non si finanziano, devono arrangiarsi con crowdfunding, con il business angel e quant'altro. E altri scrivono, bisogna mettere una franchigia di 500-600 euro alla TASI. Io personalmente la sapete come la penso sulla TASI, cioè sì, si poteva mettere una franchigia, cioè eliminarla per i redditi più bassi, immaginando che a casa, diciamo, con bassa TASI corrisponda anche un reddito minore, e però non eliminarla a tutti, non eliminarla anche a chi è vero che a tutti dà fastidio pagare 1.000, 2.000, 3.000, non so quanto paghino quelli con case di maggior pregio, però a fronte del patrimonio e dei redditi spesso sono diciamo risparmi trascurabili. Si poteva mettere una TASI con franchigia, perché no? Intanto grazie Dino Pesola del Sole 24 Ore, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, come sempre, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.